intestino, non tanto dei polifenoli, magari dei buoni probiotici, prebiotici. Vedi, ogni organo ha il suo. Come ogni vitigno ha la sua terra, ogni organo ha il suo polifenolo. Voilà, adesso vado. E con questa, vabbè, d'altronde fiera che vai, saggezza che ti riporti a casa. È vero, professore, comunque. Sì, sì. È vero. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Gira il mondo, gira nello spazio senza. Se mi alzo all'improvviso, specie dopo mangiato, mi capita di vedere nero e mi sembra di essere in una centrifuga. A me non gira mai la testa, ma ho altri tipi di giramenti, ma è colpa del lavoro. Io ho la pressione bassa e soffro spesso di giramenti di testa. Devo tenermi a qualcosa, mi viene caldo, poi un minuto e passa. A volte mi sembra di soffrire di mal di terra. Provo la stessa sensazione quando scendo dal traghetto, perché soffro di mal di mare. A me, ad esempio, gira la testa se mi affaccio dalla tromba delle scale, ma non so se è un capogiro o la sensazione di cadere e di perdere l'equilibrio. Mi fanno girare la testa le sventole, le bionde in particolare. Non so cosa sia il mal di testa e non mi è mai girata. Non soffro neppure di vertigini, ho paura dell'altezza. Ed il giorno. Abbiamo raccolto una serie di espressioni che descrivono il tema di cui ci occupiamo oggi. Avete problemi di equilibrio, vi gira la testa o avete la sensazione di sbandare? Allora, se le vertigini vi fanno perdere la bussola, oggi potete provare a ritrovarla con noi. 800 24 0024 se volete iniziare a prenotare i vostri interventi. Per quanto riguarda i denari, invece, a partire dalle 11.45 ci addentreremo in un territorio delicato che riguarda quella fase in cui è la coppia che perde il suo equilibrio e purtroppo prende atto di averlo perso in maniera definitiva. Torniamo a parlare di divorzio e delle novità che riguardano la procedura per ottenerlo e soprattutto i tempi per ottenerlo velocemente, perché molte coppie spesso desiderano proprio questo. Il Parlamento sta varando la norma sul cosiddetto divorzio breve, approvata al Senato. In discussione alla Camera, torniamo oggi a capire cosa succede, cosa sta cambiando e cosa succederà anche ai nostri denari, che senza voler essere cinici in queste situazioni non sono da meno del cuore nel darci preoccupazioni. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Vertigini, sensazione di perdere l'equilibrio, di non avere la terra sotto i piedi. Questo è il tema di oggi. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio vestibologia presso l'ospedale di Carpi, che è pronto a rispondere a tutte le vostre domande. 800 24 0024 e anche alle nostre. Buongiorno professor Guidetti, bentornato. Buongiorno. Buongiorno. Professore, perché all'improvviso il mondo si mette a girare, ma cosa vuol dire se si verifica la situazione inversa, cioè se il mondo sta fermo e noi siamo a girare intorno a lui? Vuol dire che il sistema dell'equilibrio nostro è saltato per aria per qualche momento e non abbiamo più un rapporto preciso tra noi e l'ambiente, o vediamo girare l'ambiente o ci sentiamo girare noi. Di solito è un problema che ha colpito il labirinto, cioè quella parte dell'orecchio interno che serve per dare l'equilibrio. Se poi tutto è scatenato o peggiorato dai movimenti, penso che la diagnosi sia pressoché certa. È corretto, professor Guidetti? Certo, è proprio così. Cioè, quando il movimento della testa o del corpo scatena questi fenomeni, che ci sia di mezzo il labirinto è una quasi certezza. Professore, se invece i sintomi, come abbiamo sentito nella nostra scheda, sono, che so, la paura dell'altezza, dei luoghi aperti o chiusi, la sensazione di sbandare, di sprofondare, l'insicurezza nel camminare, oppure quello stordimento, la testa leggera, ecco, la situazione è molto più complessa. Sì, il labirinto non c'entra proprio. Può essere che ci sia di mezzo il labirinto, ma può essere che ci siano di mezzo anche altre strutture. addirittura può essere che sia anche semplicemente un fatto di fobia, cioè una componente emotiva marcata. Qui bisogna chiaramente darsi maggiormente da fare per scoprire di cosa si tratta. Insomma, l'importante è, come si dice, di non fare di ogni erba un fascio. Allora, cerchiamo di individuare bene le due situazioni. Un conto è se la testa gira, un conto è invece avere la sensazione di perdere l'equilibrio. Detto in altri termini, vertigini e instabilità non sono la stessa cosa. Professor Guidetti, ci aiuti a capire esattamente, sì, perché noi le usiamo come sinonimo, no? Perché quando ci sentiamo un po' appesi... Sì, purtroppo in italiano si usa lo stesso termine, cioè vertigine, per indicare tutto, dalla paura dell'altezza fino al mal d'auto, fino alla sensazione che il mondo giri. In realtà è chiaro che bisognerebbe usare molti più termini. Allora, vertigini nel senso preciso del termine è solo quando uno vede il mondo che va in centrifuga. Quella è la vertigine vera e propria. Sì. Si può usare lo stesso termine anche per quando ci si sente in centrifuga senza vedere il mondo che giri, volendo, insomma, si possono usare queste terminologie. Quando c'è l'instabilità, invece, è chiaro che non è obbligatorio che ci siano anche le vertigini vere e proprie associate. L'instabilità può essere legata a tanti fattori. Un po' tutti questi sintomi possono essere legati a molte malattie, sono sintomi di varie malattie. Certo, la prima cosa da fare è cercare di capire bene di cosa si tratta, cioè qual è il sintomo esatto, e poi dopo ci si muove per cercare le varie cause. Generalmente non è che si tratti di una situazione difficilissima da risolvere. Bisogna semplicemente affrontarlo in modo corretto, cominciando con la terminologia corretta. Ad esempio, a proposito di terminologia, ci scrive un ascoltatore: io soffro di labirintite. Ecco, è un termine che voi medici non usate più, soprattutto gli otoneurologi, è vero? Con che cosa l'avete sostituito? Ma insomma, labirintite vorrebbe dire un'infiammazione del labirinto. Non le piace tanto questa parola, è troppo vaga, generica. Sì, però insomma, è rara, un'infiammazione del labirinto è rara, è rarissima. Beh, labirintite, diciamo che nell'uso comune equivale alla parola vertigine, cioè uno sta a dire: ho avuto una labirintite, per dire, ho avuto il mondo che girava, ho avuto la nausea, ho avuto il vomito associati. Ecco, queste sono quelle sensazioni che la gente chiama labirintite. Sì. In realtà, come ripeto, il termine medico esiste, però fa riferimento a delle patologie molto rarissime. Ecco. Quindi dobbiamo cancellarlo, il termine labirintite. Ma sì, è meglio non usarlo, è meglio usare la parola: ho avuto le vertigini e poi dopo... Oppure ho visto che il mondo che girava, oppure cammino sulle uova, come scrivono alcuni. Sì. Mi sembra di avere il mal di mare, però cammino normalmente per strada. Oppure, professor Guidetti, vorrei anche sottolineare quest'altro sintomo. Ci sono delle persone che... avvertono una sensazione di disorientamento. Mi spiego meglio. Fai la strada di casa, la fai praticamente ad occhi chiusi. Sì. Improvvisamente ti accorgi che anche strade conosciute, percorsi a te assolutamente familiari, ecco, richiedono una tua attenzione per non perdere la strada. Se te ne accorgi, questa situazione ti preoccupa perché ti chiedi che cosa sta capitando, no? Potrebbe essere un problema del cervello. In realtà, forse anche lì è un problema non tanto di cervello, sì, forse di una parte del GPS del nostro cervello che è stato individuato e si è guadagnato anche, ha fatto guadagnare anche un Nobel. Professor Guidetti. Sì, sì, è vero. Cioè, l'ultimo Nobel del 2014 è stato assegnato proprio a chi ha studiato il cosiddetto GPS, cioè praticamente noi abbiamo un satellitare nel cervello in una zona che si chiama ippocampo perché è fatto proprio come un cavallo marino. Allora, questa zona, questo ippocampo, ha delle cellule che memorizzano punto per punto le posizioni che noi abbiamo assunto nel tempo, no? E quindi, per esempio, sono in grado di ricostruirci automaticamente i percorsi, anche se noi non stiamo attenti, siamo in grado di guidare la macchina e di andare a casa senza sbagliare strada. Bene, oppure possiamo muoverci nel buio per casa nostra senza andare a sbattere. Ecco, quando c'è una malattia dell'ippocampo, che è una cosa abbastanza rara, oppure se c'è una malattia del labirinto, che è poi l'organo che manda le informazioni all'ippocampo per poterle memorizzare i percorsi, ecco che invece diventa abbastanza comune questo difetto di non riuscire più a percorrere delle strade che abitualmente facevamo a memoria, e abbiamo bisogno di o del satellitare vero e proprio o di porre maggiore attenzione rispetto a quello che avevamo in passato. E sono tutti segni di sofferenza dei circuiti dell'equilibrio, con il labirinto sicuramente implicato. Quindi oggi la nostra puntata è proprio dedicata a questa centralina, cerchiamo di capire se il nostro equilibrio ha qualche problema, parliamo di vertigini, parliamo di instabilità, abbiamo capito che sono due cose differenti, ma chiamate anche il nostro numero verde all'800 24 00 24 se avete o vi è capitato di perdere qualche volta il cosiddetto senso di orientamento. No, stavo guardando gli sms perché pare che a Davide da Como questi giramenti di testa e labirintite, che non si usa più, Davide, se ha seguito la prima parte del nostro programma, possono essere causati da un colpo di sole, quindi un evento magari così, un po' di questo tipo. Beh, mio Dio, un colpo di sole, un solone, è stato molto grave. Un'insolazione. Deve essere stato veramente un colpo di sole che ha provocato un disturbo vascolare cerebrale. Mm. Diciamo che non è proprio la causa più comune. Invece Rosalba ci scrive che perde l'equilibrio se camminando si volta a guardare una vetrina. Ecco, dipende e questo quello che ci sta guardando, no? Può darsi che sia un attacco di desiderio di entrare in un negozio per comprare quella cosa bellissima che si è vista, quella che è un po' come diceva all'inizio quello che aveva le bionde che gli facevano girare la testa. Ecco, ero sicura che si sarebbe attaccato questo, vero? Legame. Senta professore, in realtà se noi adesso direi torniamo alle nostre vertigini, ci sono dei movimenti che le scatenano, peggiorano la situazione, no? Alcuni, certo, i movimenti della testa sono quelli, i movimenti rapidi della testa, se esiste un problema dell'equilibrio, soprattutto se malato il labirinto, sono la causa principale in grado di scatenare il giramento di testa. Quindi alzarsi all'improvviso, cambiare posizione anche durante la notte. Andiamo a Giuseppe che ci chiama da Torino. Buongiorno. Che ha subito appunto proprio questo specifico problema, Giuseppe. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, dottore, io ho un piccolo. Il medico dice che è piccolo, però a me succede spesso sovente che quando alzo la testa violentemente mi gira la testa. Mm. E adesso è un periodo, no, che quando vado a letto, no, i primi 2-3 minuti ho un giramento di testa impossibile, proprio violento. Non riesco. Giuseppe. E quando di notte, se dovessi svegliarmi e mi giro, no, mi succede la stessa cosa. E siccome io viaggio in moto, ho un po' di timore. Certo, che le possa problema. Capitare. Soprattutto che il medico dice che è un problema di cervicali e finiscerà. Mi ha dato delle pastiglie, ma non ho risolto niente. Poi il medico la fa semplice, perché è un piccolo problema. Sì, perché non ce l'ha lui. Professor Guidetti, su. Non è un piccolo problema, è un problema serio. È un problema serio perché è quasi certamente legato alla formazione di microcalcoli nell'orecchio. Noi nell'orecchio abbiamo un piatto di gelatina che è il lettore di forza di gravità, diciamo, e sopra questa gelatina ha dei cristalli che quando si muovono fanno da livella. Se soffre la gelatina e si staccano i cristalli, questi diventano come dei calcoli, liberi di muoversi all'interno del labirinto e soprattutto in certi movimenti vanno a fare dei falsi contatti ed hanno quella che si chiama una vertigine parossistica da posizionamento. È una malattia seria perché se non viene eliminata, cioè se non si tolgono questi calcoli e per toglierli si fanno delle manovre apposite nel periodo in cui le vertigini sono scatenate appunto dei cambiamenti di posizione, il rischio di recidivare nel tempo è molto molto alto. Allora potrebbe diventare una patologia, non dico cronica, ma ricorrente in modo cronico, e questo è assolutamente spiacevole. Quindi poi crea del panico perché la gente si accorge che ci sono dei movimenti che sostanzialmente le sono vietati perché altrimenti sta male, e bisogna ricorrere al più presto alla manovra liberatoria per alleviare il disturbo e poi cercare le cause della sofferenza di quella struttura. Così facendo, generalmente, diciamo nel 98% dei casi, il problema si risolve senza nessuna nessun rischio per il futuro. Questa manovra la conosce anche Deborah, perché ne avevamo già parlato. Non solo, ti ho vista all'azione a suggerirla e a spiegarla a colleghi che via telefono appunto cercavano di spiegare a Nicoletta che tipo di problema avessero. Ho fatto un po' il professor Guidetti della esatto, situazione. Esatto, incredibile, per cui io subito mi è venuta in mente insomma la manovra. Ci spiega esattamente, allora noi soffriamo di vertigini e c'è questa manovra che potrebbe rimettere un po' l'equilibrio in sesto. È una manovra non invasiva, naturalmente, che deve essere fatta da un medico. Deve essere fatta da un medico e non è una manovra sola. Cioè, diciamo che a seconda di dove vanno a finire all'interno del labirinto, che giustamente essendo un labirinto ha varie stanze, no? O canali che dir si voglia, a seconda di dove questi calcoli vanno a finire, ci sono delle manovre diagnostiche che servono per identificarne la posizione. Mm-hmm. Partendo dalla posizione in cui si è identificato il falso contatto fra il labirinto e questi microcalcoli, ci sono poi manovre apposite per portarli nella zona, diciamo così, delle cellule spazzino, usiamo questo termine, sì, per capirci. Cioè, in pratica cosa facciamo? Noi identifichiamo la posizione scatenante, poi da quella posizione effettuiamo dei movimenti rapidi che vanno a far sì che questi calcoli escano da quella posizione e raggiungano la zona dove abitualmente dentro all'orecchio ci sono queste cellule, chiamiamole spazzino, appunto una specie di calfort, sì, dell'orecchio, che serve per sciogliere questi calcoli. E quindi in questo modo noi riusciamo a liberare il soggetto. È chiaro che bisogna sapere fare tutte le manovre diagnostiche, cioè per identificare la sede esatta, e poi ovviamente tutte le corrispettive manovre liberatorie. E il fatto di avere, cioè, normalmente si tratta di una posizione statisticamente più probabile, diciamo, che è quella più banale, che si vede con la testa messa fuori dal lettino, girata da un lato, no? Quindi di solito si fa una manovra che si chiama appunto manovra di Semon, manovra di Apple, insomma sono vari nomi che hanno, sono due o tre tipi di manovre di base, via. Però ecco, è sempre meglio che venga fatta da persone che siano preparate adeguatamente, anche perché insomma, certo, il rischio è quello di creare dei guastabugli invece che di risolvere il problema. Guastabugli. Allora Rosalba, che ci ha scritto per le vetrine, ci scrive che il suo problema è stato sottovalutato dai medici e anche dal professor Guidetti. Non mi sembra, perché anche il professor Guidetti ha detto girare la testa all'improvviso può scatenare, certo, le vertigini. Ma quindi, magari Rosalba, anche, non so, l'effetto, se vuole scriverci, nel vetro un po', se può anche quello causare il riflesso del vetro, dello specchio, confonderci. Enrico, buongiorno da Cagliari. Prima di andare ai mercati, che cosa le è successo? Buongiorno. Allora, a me è successo esattamente quello di cui avete parlato adesso, di staccamento degli ottoliti, sì, però prima di scoprirlo sono stato 5-6 mesi con giramenti di testa e dolore molto sopra la nuca, quindi ho fatto di tutto, ho fatto controlli da tutte le parti. Mi hanno poi consigliato per caso un otturino molto bravo, mi ha praticamente stimolato con queste manovre le vertigini, sì, che esistono in una scala da 1 a 4, e l'otturino mi ha detto tu hai la scala più alta, e effettivamente mi ha fatto girare veramente così tanto che stavo per impazzire. Mi ha fatto queste manovre, mi sono andate via le vertigini, però mi è rimasto comunque un po' di stordimento ancora per qualche mese. Volevo capire se questo stordimento è compatibile, cioè è giusto che ci sia a causa di questi distaccamenti, oppure se possono essere due cose separate. Grazie Enrico. Le leggo e spero che siano legate. Grazie Enrico, che ha fatto una descrizione precisa. Professor Guidetti ha chiamato, sì, i sassolini otoliti, è il loro nome, il loro, sì, termine tecnico, e ci chiede se questo stordimento che la manovra gli ha lasciato può essere un po' una scia, oppure sono due problemi diversi. No, sono lo stesso problema. Cioè, abbiamo detto prima che prima bisogna vuotare il secchio, poi bisogna cercare dov'è che c'è la perdita, il rubinetto che perde, no? Allora, potrebbero succedere due cose. Potrebbe succedere che il soggetto è un po' emotivo e gli rimane un senso di insicurezza dopo il trattamento, che comunque ha eliminato il problema. Sì. E questo è abbastanza comune, frequente, nei soggetti un po' emotivi, insomma. Oppure potrebbe essere che l'instabilità che rimane sia dovuta al fatto che i calcoli si sono formati perché ha sofferto, abbiamo detto, la livella, cioè il piatto di gelatina. Mm-hmm. Allora non ci sono più calcoli, ma se c'è una differenza di funzionamento, per esempio fra il piatto del labirinto di destra e quello del labirinto di sinistra, si può sentire un po' di instabilità. Ed è il motivo per cui, una volta tolti i calcoli, bisogna sempre cercare di capire perché il fenomeno è avvenuto. Quindi si fanno accertamenti, si fanno valutazioni a distanza anche per quello. Allora, c'è un'ascoltatrice, sì, si è intercettato Deborah al 349-238-6666. Sì, che no, è venuta? Perché racconta di essere stata ad una visita al professor Guidetti per dei forti attacchi di, appunto, giramenti, ha trovato i calcoli nell'orecchio, eccetera, ma la cosa incredibile, sottolinea questo ascoltatore o ascoltatrice, forse in realtà non sappiamo, è che mi ha fatto fare esame per anticorpi, malattia autoimmune della tiroide, ed effettivamente aveva ragione. È un grande professore, esatto, scrive. Che relazione aveva fatto? No, ta-da! Diciamo adesso. Professor Guidetti, lei subito dopo i mercati ci racconterà se c'è un legame tra l'equilibrio e la tiroide, ma parleremo anche di instabilità. Insomma, quando la terra ci manca sotto i piedi, abbiamo capito che non è una vertigine, è un'altra cosa. Il professor Guidetti ci darà delle indicazioni. Molti di voi ci stanno scrivendo che perdono l'orientamento, sì, entrano in un negozio conosciuto, non trovano l'uscita, eccetera. A me in albergo Vinitali mi è capitato l'altra sera, beh, esco dalla porta della camera, non capivo più dove dovessi andare, ecco. Lì magari può capitare, però adesso devo consigliarti uno buono e ce cristalli l'ho. e ce l'ho. Cuore e denari. Inizia così, cara mia, dicendosi insieme a te non ci sto più, non sono ancora pronta a divorziare da te, te lo dico già, Edoarda, davanti a queste 3-4 persone che ci ascoltano. Il concetto è chiaro, ma non basta per mettere fine ad un matrimonio. Sappiamo quanto lungo, faticoso, costoso possa essere il percorso di una separazione, poi di un divorzio. Ultimamente però è cambiato qualcosa, sta cambiando, anzi qualcosa di importante, già dall'autunno scorso, lo ricorderete perché noi a Cuore Denari ne abbiamo già parlato, è diventato possibile mettersi d'accordo di fronte ad un avvocato senza dover passare dal giudice. In alcuni casi, in assenza di figli, anche semplicemente interfacciandosi con il sindaco, quindi con il proprio comune. Lo avevamo definito divorzio facile, ma non potevamo ancora definirlo breve. Erano infatti necessari i 3 anni di separazione prima di divorziare. Ora sono in arrivo delle novità, anche da questo punto di vista. Nell'ultima norma approvata al Senato in discussione alla Camera, il periodo del cosiddetto ripensamento viene ridotto a 6 mesi, se la separazione è consensuale, e ad 1 anno se invece è giudiziale. Fate attenzione, cominciate già allora a chiederci i chiarimenti che vi si rendono necessari. A partire dalle 11.45 facciamo il punto sulle novità di questo divorzio, che è senza dubbio più breve. Capiremo però se è anche più facile e se è meno costoso. 800 24 00 24, pronti, mano alla cornetta. Gira e rigira la testa, mi gira la testa d'amore per te. Presa per i capelli e una lampada e dondola e ti fa luce di sé. E noi torniamo a parlare non dell'equilibrio che perde la coppia, perché quando decide di separarsi, ma dell'equilibrio, dei problemi che la nostra centralina dell'equilibrio può darci. Abbiamo parlato di vertigini, le abbiamo definite insieme al professor Guidetti, e vogliamo tra poco parlare di instabilità. Ma professor Guidetti, ci sveli il legame tra tiroide e vertigini? In realtà non è un legame fra tiroide e vertigini, in realtà è un legame fra degli anticorpi che, prodotti in modo, diciamo, sbagliato, inutilmente, possono dare un danno sia alla tiroide che al labirinto. Cioè succede questo: ci sono persone che producono questi anticorpi che una volta si pensavano essere in grado solo di dare un danno alla tiroide, facendola funzionare meno, quella che si chiamava tiroidite di Hashimoto, sì, tiroidite autoimmune. Ecco, noi sappiamo da qualche anno che invece in moltissimi casi questi anticorpi lasciano la tiroide momentaneamente perfetta, ma danneggiano il labirinto, dando vita proprio a quelle vertigini che abbiamo visto prima da calcoli, cioè quelle vertigini da sassolini, come la gente li chiama. E purtroppo le persone che soffrono di questo aumento di produzione degli anticorpi hanno molta più probabilità di generare delle vertigini, diciamo, con una certa frequenza, e quindi bisogna proteggere il labirinto anche da, diciamo, da questo possibile attacco degli anticorpi. Quindi se soffri di vertigini controlla gli anticorpi della tiroide. Sì, questo è un altro messaggio che dobbiamo portarci a casa. E, andiamo prima a casa di Luciana, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Luciana. Buongiorno a lei, buongiorno. Grazie Luciana, lei anticipa un tema che avremmo voluto trattare, e cioè, Luciana, la sindrome di Meniere. Benissimo, infatti, ecco. Le vertigini possono essere uno dei sintomi della sindrome di Meniere, a cui abbiamo dedicato proprio col professor Guidetti numerose puntate. Professor Guidetti, la inquadri rapidamente per chi ancora non la conosce? Diciamo che è un termine che non significa nulla. Anche cioè, questo, anche come labirinto, è un vero professore. Oggi ci tramontano tanti capisaldi proprio. Beh, vabbè, diciamo che... Chiamiamola come la chiamiamo noi. Ma sì, diciamo che è una malattia che viene spesso indicata con questo nome, che consiste nell'aumento dei liquidi all'interno del labirinto. Il labirinto è fatto in modo da avere dei liquidi al suo interno, e se questi liquidi aumentano di volume vanno a schiacciare le cellule che sono immerse nel labirinto. Okay. E quindi possono dar vita a un calo dell'udito, possono dar vita a delle vertigini ricorrenti, danno vita a una sensazione di pienezza nell'orecchio e danno vita a degli acufeni, cioè a dei rumori all'interno dell'orecchio. Certo. Ecco, c'è da dire che mentre una volta, insomma, si pensava che questo insieme di sintomi fosse obbligatoriamente legato ad un'unica causa, per cui si usava il termine malattia di Meniere per indicare questa situazione, adesso con l'evoluzione tecnologica è spesso possibile trovare la causa di questo aumento dei liquidi e quindi affrontare la malattia in un modo un po' più specifico rispetto al passato, e questa è già una buona notizia. Luciana, l'ha descritta bene il professor Guidetti? Sì, bene. Ok, infatti, diamo 10 al professore. Io dall'orecchio, no? Come sa quando prendo una conchiglia e sento il rumore del sì, mare? Certo. Ecco, io giorno e notte ho sempre quel rumore lì. E cosa potrei fare? Quella manovra che il professore prima ha detto potrebbe servirmi oppure no? Secondo me no, professor Guidetti, ma è lei il professor, vero? No, assolutamente no. Diciamo che c'è qualche caso in cui le due patologie coesistono, ma non è la norma. Purtroppo il rumore è un segnale d'allarme, che vuol dire semplicemente che l'orecchio sta soffrendo. Allora è chiaro che una persona che ha un rumore all'orecchio costante e delle vertigini ricorrenti tende a dare maggior peso al rumore, perché dice dannazione, ce l'ho tutti i giorni, mi dà un fastidio terribile. Certo. In realtà bisogna curare la malattia nell'insieme, bloccando prima le vertigini ricorrenti. Ecco, io suggerirei di pensarla così. Quando c'è un attacco di vertigini violente è come se ci fosse una martellata sul labirinto. Ai. Quindi bisogna anzitutto ridurre il numero delle martellate che arrivano al labirinto, e poi ci si preoccupa anche degli acufeni, cioè, perché alla fine voglio dire, è un segnale d'allarme, ma non sta a indicare che c'è una sofferenza ricorrente dell'orecchio, sta a indicare la sofferenza di base, quindi certo, va affrontato in un secondo momento. Prima di tutto bisogna bloccare quel meccanismo che produce l'aumento dei liquidi e che quindi causa quelle crisi ricorrenti drammatiche, perché onestamente parlando la malattia di Meniere è veramente una malattia che sconvolge, perché insomma una persona non si sente tranquilla, quelle 4, 5, 6, 10 volte all'anno anche sa che avrà delle ore in cui dovrà stare fermo nel letto, bloccato, col vomito, insomma è una malattia destabilizzante, neanche anche fortemente, diciamo, in grado di provocare anche di stati d'animo, di preoccupazione, certo, insomma. Quindi, perché prima si ha paura di aver paura. Prima bisogna bloccare la vertigine. Quando si è riusciti a bloccare la vertigine, poi tutto il resto si affronta con maggiore calma. Professor Guidetti, lei deve tornare, a proposito di calma, con calma ad affrontare con noi i problemi di instabilità, perché adesso il tempo è tiranno, noi dobbiamo parlare di un altro problema, che è l'instabilità della coppia con il divorzio breve. Quindi intanto la ringraziamo per essere stato con noi, le diamo appuntamento per una nuova puntata di Cuore Denari, in cui parleremo di quando la terra ci manca sotto i piedi. Professor Guidetti, grazie per essere grazie stato con noi, le auguriamo una buonissima giornata. Grazie a voi e buongiorno a tutti. cuore e denari. Mi chiedevo, ma noi chissà perché viviamo? Ma tu mai ci hai pensato qual è lo scopo vero della nostra vita? Qual è? È amare. È amare. Noi viviamo per amare. Se non si amerebbe... Amasse. Se non si amasse. Sì. Noi è passi... come tanti fiori in autunno appassiti. Noi appassiressimo, Fefe. Noi appassiressimo, cara mia la Nicoletta, un grande classico, Divorzio all'italiana, e il classico Divorzio all'italiana sta cambiando, forse lentamente, per qualcuno sta cambiando finalmente, negli ultimi mesi con qualche novità molto rilevante e concreta. 800 24 00 24, se siete alle prese con questo momento delicato della vostra vita o siete stati alle prese con il divorzio all'italiana, raccontateci le vostre esperienze legate alle procedure di separazione e divorzio, i vostri dubbi, anche se possiamo considerare un po' questo momento della vostra vita archiviato, quali sono gli aspetti che vi erano sembrati critici e quali quelli che vi sembrano critici in questo momento con queste novità delle quali parleremo questa mattina, che riguardano tempi ma anche i denari necessari a chiudere questa parentesi che per qualcuno appunto della propria vita non dolorosa. È stata felice e quindi si conclude in maniera dolorosa. Fateci le vostre considerazioni anche al 349-238-6666, oltre che al numero verde, ma se volete anche sulla pagina di Cuore e Denari del nuovo sito di Radio 24, dove potete anche intercettare tutti i collegamenti con i nostri social. Noi ne parliamo come sempre con un nostro graditissimo ospite in diretta dagli studi di Roma. Bentornato a Cuore e Denari all'avvocato Gianetto Gassani, presidente e fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci qua, ben ritrovato. Naturalmente, avvocato Gassani, proprio l'ultima volta che ne avevamo parlato di questo argomento ci eravamo lasciati definendolo divorzio facile, ma non breve, perché stiamo parlando proprio di due momenti diversi, di due situazioni diverse. Ora il Parlamento sta varando una norma che potrebbe renderlo tale, cioè proprio breve. Mamma mia, qua come ci è piombata addosso questa notizia. Riprendiamo un po' Cuore e Denari, poi naturalmente alle 12 cercheremo di saperne qualcosa in più. Avvocato Gassani, la ripesco, eccoci di nuovo a noi. Allora, avevamo lanciato questo argomento, la differenza fra divorzio facile e divorzio breve, tutte novità con le quali dobbiamo prendere confidenza, perché presto appunto saranno magari una prassi che si consoliderà via via per quello che riguarda il nostro ordinamento. Allora, che differenza c'è fra i due e a che punto siamo con l'iter parlamentare, avvocato? Ma abbiamo bisogno del sigillo della Camera. Il divorzio breve sta per diventare realtà. Si stanno per ridurre i tempi biblici per ottenere il divorzio dai 3 anni attuali, perché ancora oggi sono 3 anni, a 1 anno, a 12 mesi in caso di separazione giudiziale e 6 mesi in caso di separazione consensuale. Quindi un grande passo avanti per un diritto di famiglia come quello italiano, piuttosto vecchio, piuttosto appesantito da norme che non sono neanche più condivise dal comune sentire. Rimane quindi questo tempo di ripensamento, no? Definiamolo così, appunto lei lo ha ricordato, lo ha quantificato in 6 mesi se la separazione consensuale, 1 anno se giudiziale. C'è chi avrebbe voluto in realtà eliminarlo del tutto, avvocato. Gli avvocati matrimonialisti che cosa ne pensano, date le molte cause che ogni anno appunto in questo mondo affrontano e gestiscono? Ma per quanto riguarda l'Associazione Avvocati Matrimonialisti, devo dire che la nostra è sempre stata una posizione molto ferma, cioè nel senso di abrogare tout court la fase della separazione. Sembra strano che lo dicano gli avvocati, e adesso spiego perché. La separazione dovrebbe riguardare la cosiddetta fase del ripensamento. Ora, nel 98% dei casi la gente che decide di separarsi non torna più indietro. Pertanto non è possibile mantenere in vita un istituto come quello della separazione soltanto per favorire il 2% di coloro i quali, una volta depositato un ricorso, ci ripensano e tornano un'altra volta dal marito o dalla moglie. Oggi il detto causa che pende, causa che rende non funziona più. Non conviene neanche più agli avvocati allungare il brodo. La gente non ce la fa a pagare le parcelle in proporzione al lavoro. E allora si ragiona un poco alla francese, alla tedesca, all'inglese. Si fanno gli accordi, si cerca di stringere i tempi. Conviene all'avvocato perché non deve stare 10 anni con un fascicolo aperto. Conviene alla gente, all'utenza, che non deve pagare l'avvocato come il tassametro di un tassista. Per cui credo che fondamentalmente, al di là di quelle che possono essere poi, insomma, può essere la cultura italiana, l'abrogazione della separazione rientra anche in un diritto di famiglia europeo, che è quello che poi è il sogno di tutti. Cioè non è possibile che da Stato a Stato ci siano profonde differenze. Infatti, visto quindi che un divorzio siamo... lampo, senza ripensamenti. Sì, ma tanto gli italiani, che voglio aprire e chiudere una parentesi, già esiste. In effetti la gente va all'estero, c'è il cosiddetto turismo divorzile, abbiamo c'è fatto un regolamento, delle puntate con lei, altro che... appunto, 44-2001, che consente agli italiani di andare a divorziare immediatamente all'estero. Quindi forse è il caso di attrezzarci anche noi. Sappiamo però anche quali sono i limiti, le motivazioni per cui in Italia c'è un po' più di resistenza, naturalmente a vocazione cattolica di questo paese, insomma ci sono altri temi che, dico anche giustamente, insomma dobbiamo tenere in considerazione. Credo che sia già, avvocato, quello del quale parliamo questa mattina, un grandissimo salto di qualità, no? Assolutamente. Ecco qua, allora il 98% dei casi, mi hanno colpito due cose tra tutte quelle che lei ci ha già spiegato. Nel 98% dei casi chi decide per la separazione non torna indietro, no. E quindi insomma raccontateci se anche voi siete fra questi. 800 24 00 24, causa che pende, causa che rende, non vale più, per cui anche gli avvocati matrimonialisti / divorzisti hanno come dire tutta la buona volontà nel velocizzare le pratiche di separazione e divorzio, perché anche a loro appunto non rende assolutamente più tenere in ballo delle cause solo per specularci e guadagnarci. Diciamo che questo ormai è proprio un'immagine che tra l'altro i soldi non più ci sono, quindi c'è poco da speculare. Esattamente, quindi vi chiedono di essere pagati anche a rate. Senta, avvocato, prima di andare al nostro giornale radio, sentiremo adesso qualche dettaglio in più anche rispetto a questo terribile incidente. Facciamo allora subito un piccolo vademecum proprio del divorzio breve e del divorzio facile, dopodiché andremo a tutto l'ABC per attivarsi in queste procedure, quando naturalmente sarà possibile farlo, perché adesso abbiamo ancora lo step della Camera dei Deputati da aspettare. Ma in effetti, allora, il divorzio facile l'abbiamo capito, si può addirittura separare o divorziare davanti all'ufficiale di Stato civile quando non ci sono figli o quando non ci sono beni da trasferire. Quindi con intanto 16 non euro... è che sono due divorzi diversi, nel senso che è sempre lo stesso, che uno riguarda gli attori con i quali mi devo interagire per velocizzare l'operazione, l'altra riguarda proprio i tempi. Mi sente, avvocato Gassani? No, non ci sente più, perché forse la musica ci dice invece che devo andare al giornale radio. Direi che allora rimandiamo tutta questa discussione subito dopo. Cuore e denari. Io credo che tu mi debba delle scuse, Barbara. Se hai qualcosa da dirmi, io sono qua. Io voglio il divorzio. No, ma che divorzio? Ma cosa dici? Neanche per sogno. Non sai quanto ci ho riflettuto. Io proprio non voglio più essere sposata con te. Ma perché mai vuoi divorziare? Insomma, ti ho fatto qualcosa? O non ti ho fatto qualcosa? Non riesco a specificare i motivi, Oliver. Beh, provaci! Non ci voglio provare! Insomma, io in caso dovrei chiedere il divorzio. Voglio dire, quello portato all'ospedale in preda a una grave... indigestione. Sì. Sei una grande esperta nell'arte di farmi passare da cretino. La guerra dei Roses non ha portato proprio ad un divorzio né facile né veloce né breve, nessun'altra caratteristica di questo tipo. Per quello che riguarda invece l'ordinamento italiano, sembrerebbero esserci novità concrete in arrivo per il divorzio. E stiamo parlando questa mattina a Cuore e Denari, la novità più consistente riguarda il cosiddetto periodo di ripensamento. Ricordiamo che era di 3 anni, questa fase di passaggio fra quando decidiamo di separarci e quando arriva il divorzio definitivo, e che adesso manca ancora però la approvazione, l'ultima si auspica da parte della Camera dei Deputati, dovrebbe passare questo periodo a 6 mesi se la separazione è stata consensuale, ad un anno se giudiziale. 800 24 00 24, raccontateci le vostre esperienze in merito, ma soprattutto fateci le vostre domande su queste novità e se state soprattutto passando, noi naturalmente non ce l'auguriamo, questa fase difficile della vostra vita. Siete d'accordo? Quella di 3 anni era un'inutile attesa? Sono sufficienti anche 6 mesi per essere convinti di questa decisione? Ce lo diceva in questo senso proprio poco fa l'avvocato Gianettore Gassani, nostro ospite di stamattina, presidente fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Avvocato, avevamo lasciato in sospeso questo piccolo vademecum che volevamo fare sulla differenza fra divorzio breve, che è quello appunto è quell'aspetto relativo ai nuovi tempi, no? Per dare il via libera praticamente al divorzio definitivo fra due persone che vogliono dire ormai basta alla loro vita matrimoniale. Il divorzio facile riguarda invece praticamente gli interlocutori con i quali questa procedura si attua. Ci vuole spiegare meglio? Esatto, allora praticamente la fase di interregno da separazione e divorzio ormai è una fase molto breve, 6 mesi, pensando che qualche anno fa erano addirittura 5 gli anni per chiedere il divorzio, poi siamo passati a 3, poi a 1 anno per le giudiziali, 6 mesi per le consensuali. Grande passo avanti, quindi associando il divorzio facile, che è quello che si può fare all'ufficiale di stato civile quando non ci sono figli, quando non ci sono beni da trasferire, più la riduzione dei tempi, in teoria in Italia una coppia senza figli potrebbe dire basta definitivamente al proprio matrimonio in 7 mesi. Il che mi pare un passo avanti enorme, una rivoluzione copernicana del diritto di famiglia. Infatti. E quindi, avvocato, guardi, già la interrompo brutalmente, per tutte le persone che si stanno candidando con le loro domande e che già ci stanno spiegando situazioni familiari un po' difficili con bambini magari minorenni in ballo, stamattina è bene che non telefonino affatto per chiederci delucidazioni sul divorzio breve o facile, oppure in quali casi, anche appunto con situazioni familiarmente parlando più delicate, possono auspicare di poter avere un divorzio secondo questi nuovi criteri? Ma io credo che la questione dell'affidamento dei figli prescinda dai tempi del processo, anzi devo dire per esperienza professionale in trincea che i tempi lunghi vanno a esasperare gli animi e creano violenza, perché l'attesa del processo, le spese eccessive, l'umiliazione di trovarsi in tribunali che sono ormai dei divorzifici può veramente accentuare anche il disagio dei bambini. Per cui credo che bisogna scindere la crisi della coppia con quello che è poi il ruolo dei genitori, che rimangono tali anche dopo. Sì. Si rimane genitori a vita. Assolutamente. Questo è sempre bene ricordarlo e impegnarsi. No? Devo dire che invece c'è lo sconcio in Italia della guerra sui figli. La guerra dei rossi che si gioca sul tavolo dell'affidamento dei figli, considerati un bottino di guerra, considerati una merce di scambio o uno strumento di vendetta o rivendicazione per farla pagare all'altro. La vergogna nazionale. Ci sono poi anche peraltro, pur da separazione avvenuta, situazioni di rigidità anche sulla gestione dei figli che si mantengono veramente, si perpetrano a lungo anche quando i figli diventano grandi, ma ci sono delle parti di coppie che si ostinano comunque a mantenere una rigidità anche sulla gestione del tempo dei figli, che anche lì sarebbe un grandissimo discorso. E rimangono, no? Dei tatuaggi emotivi che sono, come nel dice Alberto cuore Pellari, dei bambini, che sono incancellabili, o vengono cancellati con molta fatica. Ho conosciuto i genitori delinquenti, veramente delinquenti, perché hanno violentato la vita dei figli e tutto hanno fatto tranne che il loro interesse. Io credo che i magistrati, gli avvocati, gli assistenti sociali, i psicologi debbano essere sempre più formati per stroncare sul nascere questa forma di violenza, perché una delle violenze più gravi all'interno della famiglia è proprio la strumentalizzazione in danno dei figli. Certo che è anche difficile magari per un magistrato poi in quei frangenti in cui già ha il compito di velocizzare le operazioni per cercare di alleggerire un po' il peso del lavoro che c'è a carico dei tribunali, pensare anche a gestire le emotività dei genitori, però giustamente non però deve fa parte proprio della storia. Andiamo a questo divorzio breve / facile e cerchiamo di capire invece che tipo di implicazioni porterà. Tra l'altro, avvocato Gassani, tra chi diciamo non vede di buon occhio tutta questa novità, parla già di una possibile futura corsa a questo divorzio breve, come se ci si divertisse, no? È un po' come mi fa ricordare la riforma del mercato del lavoro, con tutte le novità anche sui nuovi contratti. C'è chi dice perché insomma si vuole cancellare l'articolo 18 perché gli imprenditori si divertono a licenziare, assumono perché non vedono l'ora poi di divorziare dai propri dipendenti, è il caso di dirlo, di licenziare velocemente. Non è che tutta questa novità per quello che riguarda appunto i nuovi divorzi entrano a regime nel nostro ordinamento perché si vuol dare adito ad una corsa al divorzio breve? Per chi la pensa così, che cosa rispondiamo? Ma la trovo come una grande ipocrisia di fondo. In Italia ormai ci sono milioni e milioni di separati e divorziati, siamo un paese di separati e divorziati, e non credo che ci sia stata questa legge, che ancora non c'è, ad accentuare questo fenomeno. Tra l'altro io sono molto preoccupato di un'altra cosa, che non ci si sposa più. non ci si sposa più. Cioè, l'anno scorso abbiamo toccato appena i 200.000 matrimoni contro il 500.000 di 30 anni fa. Cioè, questo è un paese che non fa nulla per far sposare la gente, per aiutare i giovani sposi, e fa di tutto per creare ostacoli a chi la vuol far finita. Questa è l'ipocrisia del nostro paese. Non ci si sposa più, ci sono altri tipi di coppie che andrebbero legittimate in maniera un po' più forte, in maniera diversa, perché oggi abbiamo tutto il mondo delle famiglie di fatto, chiamiamole così, che naturalmente aspettano di essere disciplinate in tutte le implicazioni della loro vita in maniera diversa e più stringente. Detto questo, arginiamo l'argomento, avvocato, se no non ne veniamo più fuori, ma so già che lei sarà ben disponibile anche su quegli argomenti al più presto. Allora, c'è Mario dalla provincia di Reggio Calabria che aspetta da un po', l'800 24 00 24, poi anche pronto Silvano da Treviso, e se volete preparatevi anche voi sempre al nostro numero verde. Mario, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, da Mario Scrivo da Reggio Calabria. Niente, io volevo solo dire che per me è l'ennesima incompiuta, l'ennesima ipocrisia. Cioè, in che senso? È una proprio totale ipocrisia questo, perché questi divorzi facili espongono il soggetto più debole, quasi sempre è l'uomo, non perché sia maschilista, ma quasi sempre è l'uomo, a essere ricattabile pur di avere il divorzio facile, perché spesse volte, secondo me, la donna vede nell'uomo ciò che lo Stato è deficitario, cioè il suo datore di lavoro, ovvero sfrutta questa situazione di matrimonio e poi di separazione e poi per essere mantenuta come là dove lo Stato viene a mancare nel dare un lavoro alla donna. Allora, cioè, Mario, adesso l'uomo divorziato un po' come ammortizzatore sociale, io la vedo un po', poi magari io, con tutto ovviamente rispetto, forse questa potrebbe essere un po' anche la sua situazione, nella quale lei sente una frustrazione di questo tipo. Leggevo nelle anticipazioni della sua domanda che lei si definisce un divorziato di vecchia data. Avvocato Gassani, perplessità che possono essere anche condivisibili, perché certamente ci sono anche queste situazioni di chi ne approfitta anche di un divorzio per ottenere questo assegno a vita che poi un marito, naturalmente un ex marito, deve riconoscere alla coniuge o alla ex coniuge. Oggi credo che stiamo andando incontro proprio anche il divorzio facile e breve, in realtà ci racconta qualcosa di molto diverso. Scusa un attimino, io sono tra i divorziati fortunati, in che senso? È che io lavoro, la mia ex moglie lavora e io mantengo solo mio figlio con tutto il cuore, e lo sento tutti i giorni, anche se siamo a 730 km di distanza. Cioè, io sono un padre che sente la responsabilità di essere un padre, ma io non parlo per me, parlo perché io osservo, io sono un infermiere professionale, osservo anche da un punto di vista sociale. Ci sono queste situazioni, Mario, però appunto ribadisco, forse anche questo nuovo modo, tra virgolette, di porre fine alla propria vita in comune, se non la si vuole più, in realtà vuole andare incontro a un cambiamento dei tempi che non ne contempla più questa moglie che vuole farsi mantenere a vita, almeno credo, avvocato Gassani. Non so se lei nella sua pratica quotidiana invece si scontra ancora con situazioni come quella che Mario indicava. C'è di tutto, c'è anche chi effettivamente considera il matrimonio come una sistemazione economica, su questo non ci sono dubbi. Ci sono anche mariti che pretendono di farsi. Ci sono anche mariti cacciatori di dote, oggi anche le donne mantengono gli uomini. Credo anche che il divorzio facile possa penalizzare invece alcune donne che magari, non potendo avere un proprio legale di un certo livello, non riescono a trattare bene una separazione, alcune clausole. Addirittura io ho paura anche di minacce nei confronti di alcune donne quando non c'è un controllo giurisdizionale. Quindi io starei attento a dare delle etichette o fare delle previsioni a questo divorzio breve. Devo anche dire che, tra l'altro, le statistiche parlano chiaro. Negli ultimi 20 anni gli assegni di mantenimento per le mogli sono passati dal 60% al 18%. Ciò significa che molte donne non chiedono più l'assegno, molte donne lavorano, quindi sta cambiando anche la cultura degli italiani e delle italiane. Quindi credo che sicuramente in futuro vedremo invece molte più donne pagare gli assegni per gli uomini, perché ultimamente mi stanno capitando anche queste situazioni. Infatti, lei ne ha scritto anche un bel po' di tempo fa per il Sole 24 Ore ho ritrovato anche questi articoli. Detto questo, adesso andiamo invece a questo divorzio facile. Sul breve abbiamo già soffermato sufficientemente la nostra attenzione, abbiamo capito i tempi, il tema è come farlo non appena appunto avremo questo strumento a nostra totale disposizione. Ammettiamo e partiamo, avvocato Gassani, dalla situazione proprio più semplice che si può manifestare. Due persone che sono state insieme per un po', non hanno figli e vogliono chiudere rapidamente questa parentesi della loro vita. Allora, per esempio, proprio per farla veloce, il primo interlocutore al quale devono rivolgersi qual è? L'ufficio dello Stato Civile. Vanno lì, firmano un modulo, il comune di residenza, firmano un modulo, dichiarano di volersi separare, non c'è nulla a pretendere, e quindi firmano e a quel punto sono separati. Quindi quella è la consensuale proprio? È oppure la separazione consensuale. Esatto, ma lo deve stabilire qualcun altro che è consensuale o vale l'ufficio? Solo loro. La consensuale nasce dalla volontà di entrambi di far finire la partita 0-0, perché se anche non hanno figli, ma uno dei due pretende danari o altro, a quel punto farà una giudiziale. Quindi è solo una scelta libera della coppia di dire non abbiamo niente da dividere più, né amore, amici né come altro, prima come si dice, amici come prima, esatto. Mi costa, però cantavano anche Paola e Chiara, mi costa una fortuna, non me lo ricordo. Ecco, a proposito del costo, allora questo documentino che va firmato lì in comune ha qualche marca da bollo da applicare? 16 euro. Questo, beh, noi avvocati è il costo questo, della fine della nostra vita matrimoniale. Esatto. Praticamente, se è totalmente consensuale, firmato questo modulo, dopo 6 mesi si potrà parlare di divorzio. Dopo 6 mesi si ritorna, sempre quando passerà la legge sul divorzio breve, si ritorna al comune dallo stesso ufficiale dello Stato Civile e si presenta, quindi si firma il modulo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi il divorzio. E il gioco è fatto. Senta, tanto per non trovarci delle sorprese, sarà un carico di lavoro che dai tribunali si trasferirà ai comuni? Non è che i comuni hanno qualcosa da obiettare su questa novità che sta arrivando a carico loro? Ma non credo, anche perché quante coppie si separano, divorziano senza figlio, senza avere nulla a pretendere. Si tratta di una piccola percentuale. Io credo che dobbiamo lavorare molto sulla mentalità degli italiani, cioè di evitare il litigio a prescindere dai soldi, e come dicevo prima, evitare che i figli diventino poi la contesa infinita, perché magari il divorzio si ottiene immediatamente, ma la causa per i figli dura 30 anni. Certo. E allora, siccome oggi i figli vengono mantenuti anche a 30, 35, 40 anni, perché c'è anche questa questione di questi figli che non crescono mai, dobbiamo cercare tutti quanti, genitori e figli, trovare un punto d'incontro, perché non è più possibile vedere nei tribunali genitori anziani trascinati dai figli che a 30 anni vogliono la paghetta. Questo è un altro problema, altra questione economica di cui avevamo parlato, ti ricordi, a cuore denari? Tenta l'avvocato Gassani di coglierci in castagna, ma non ce la fa stamattina. Ma evidentemente sono temi sui quali bisogna ritornare, perché qua cogliamo proprio nelle sensibilità delle persone. Chi sentiamo? Allora andiamo da Silvano, che ci chiama da Treviso. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno pure a voi, complimenti per la vostra trasmissione. Bravo Silvano, così si fa. Accolto tutti i giorni. Ottimo. Niente, io sono separato, diciamo consensualmente, e sto iniziando le pratiche per il divorzio all'estero. Ah. Consensuale comunque pure questo. Ecco, volevo sapere, visto che è stata approvata non ancora in via definitiva la legge sul divorzio pure qui in Italia, se vale la pena aspettare o proseguire. Ecco, diciamo, io tengo 2 figli, nessun problema per i figli, perché sono condivisi, dunque sì. Non c'è, diciamo, una conflittualità che potrebbe scatenarsi legata a quell'aspetto. Silvano, andiamo subito all'avvocato Gassani, che peraltro, siccome stiamo anche chiudendo, quindi chiedo subito un parere legale. Non vale la pena andare all'estero, perché credo che i tempi sono ormai maturi per il divorzio breve. Poi di solito si va all'estero quando si vuole divorziare e basta, senza passare per la separazione. Adesso non avrebbe più senso, a questo punto tanto vale aspettare. Avvocato, c'è questa domanda, carina, l'hai vista? Sì. Vai. Il comune deve accertare l'identità dei due, spero, perché se mio marito ci va con una e mi ritrovo separata senza saperlo, non c'è dubbio. Beh, non c'è dubbio. Non c'è, quindi accerta, vabbè, andiamo con dei documenti. Persone, non è che uno si presenta lì, buongiorno Nicoletta, ti porto in comune e ti spaccio per un'altra. Ci manca. Fantastico. Però veramente la fantasia delle persone non ha limite. Avvocato Gassani, noi ritorneremo al più presto su questi argomenti quando la Camera avrà dato il via libera al provvedimento e avremo questo nuovo strumento nella piena disponibilità degli ascoltatori e delle persone che purtroppo, ahimè, vogliono separarsi, entreremo proprio ancor più nel vivo di tutte queste novità. Abbiamo in 5 secondi ancora qualche ultimo messaggio allora, da dare. Sì, Gianluca ci scrive sì. Una citazione di Oscar Wilde: c'è solo una cosa che costa più di una moglie, una ex moglie. Avvocato, è d'accordo? Non è più così, anche non scriverebbe più la stessa cosa il nostro caro Oscar. Grazie. Abbiamo Andrea Roccabelli in regia la parte tecnica, sì, che vogliamo ringraziare. Certo, Marco Lombardo, Isotta Scenna, che oggi compie gli anni. Bella come sempre, oggi compleannata ancora più bella. Noi ci ritroviamo, avvocato Gassani, a presto. A presto. Grazie, grazie molte. Noi ci ritroviamo domani, da domani, per 3 giorni presentissime al Salone del Risparmio. Non mancate. Cuore e denari.